Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Essere e avere. Guida galattica per consumatori di Maria Luisa Pezzali. La guida ha già soppiantato l'Enciclopedia Galattica come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e la saggezza per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno. E secondo, reca la scritta Don't Panic, niente panico, in grandi rassicuranti caratteri sulla copertina. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, iniziamo proprio da qui, dalla Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams, serie radiofonica, poi romanzo cult, poi film, il nostro viaggio alla scoperta del presente, passato e futuro dei consumi. Un viaggio che ci trasporterà in una galassia fatta di prodotti e brand, formule e settori, ma soprattutto nomi e storie entrate nell'immaginario collettivo. Ogni settimana un tema o una parola chiave per decifrare la complessità, le contraddizioni del mondo dei consumi e della società tout court, perché poche altre cose al pari delle nostre abitudini di spesa, cioè cosa e come compriamo, raccontano chi siamo e quali siano le nostre priorità di consumo e di vita, con un occhio al passato e lo sguardo al futuro. Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice, tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Come mai c'è tanta gente qui? Penso per me molto sia dovuto all'assortimento. Il cliente entra da noi e ci trova tutto. Spaghetti a 150 lire, carne, frutta, verdura, tutto fino al caviale e l'aragosta. E questo è molto importante perché si risparmia tempo e denaro. Questo oggi, fra 1000-2000 anni, anche i supermercati, chissà, saranno considerati curiosità di epoche primordiali. La spesa si ordinerà elettronicamente e i lauti pranzi dell'epoca si svolgeranno a base di pillole. Sarà un bene o un male ai posteri, appunto, l'ardua sentenza. Prima tappa del nostro viaggio, prima voce sulla nostra guida, il supermercato. Lo abbiamo sentito, era il 1956 in occasione di un congresso internazionale sulla distribuzione alimentare. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti allestisce un supermarket dimostrativo a Roma, nel quartiere Eur, Palazzo delle Esposizioni. 450.000 visitatori in poco meno di 2 settimane. Pochi mesi dopo, nel novembre del 1957, l'anno del carosello, della Fiat 500 e dei trattati di Roma, primo passo per un'Europa unita, a Milano, in un'ex officina di Viale Regina Giovanna, apre il primo supermercato italiano, il primo della catena Supermarkets Italiani, poi diventata Esselunga. Tra i fondatori, oltre a Bernardo Caprotti, c'è Nelson Rockefeller. Nell'Italia prossima al boom economico sbarca il modello di consumo già diffuso da oltre 20 anni negli Stati Uniti, un modello destinato a rivoluzionare tempi e modi della nostra quotidianità, come ci spiega Luca Pellegrini, esperto di marketing e consumi, preside della Facoltà di Comunicazione dell'Università Yulm. Sicuramente un impatto molto forte, per molti versi allora nel 57 un oggetto largamente estraneo, diciamo così, nel senso che non era quello che poteva essere in America, dove era presente da 30 anni, perché i primi supermercati, addirittura alcuni li fanno risalire al 1915 con Wiggy Piggy, una catena che era in libero servizio più che essere supermercato. i primi supermercati veri probabilmente sono all'inizio degli anni 30, quindi nel 57 in America il supermercato aveva già una storia molto consolidata, insomma, no? E aveva dietro questa storia tutto un retroterra anche di tipo appunto sociale che non esisteva ancora in Italia, cioè l'Italia era un paese molto diverso che usciva dalla guerra, un paese in cui il processo di industrializzazione era ancora in larga misura a venire, quindi era qualcosa di abbastanza particolare che naturalmente è stato visto allora come qualcosa di estraneo e pericolosissimo, un oggetto enorme, i famosi 400 metri che allora erano visti come una dimensione enorme e estremamente pericoloso per la miriade dei punti vendita tradizionali che allora esistevano e che peraltro erano difesi assai bene dalle loro rappresentanze, in particolare la Confcommercio che allora era davvero un'organizzazione molto potente, insomma, d'altronde la base elettorale del commercio allora era elastissima, perché parlando di allora circa 1 milione di punti vendita. Conquistò subito le famiglie italiane oppure esitò in qualche modo a insediarsi? Ma allora la cosa fu abbastanza lenta perché appunto il supermercato fu messo in difficoltà, la crescita della rete fu molto difficoltosa, la battaglia durò per tantissimo tempo e si può dire praticamente che forse è da 15 anni, 20 anni che i problemi si sono attenuati, ma prima c'è sempre stata una grande difficoltà e una difficoltà che cresceva al crescere della dimensione del punto vendita, quindi diventava massima con gli ipermercati che in Italia hanno cominciato a farsi vedere nei primi anni 70. Quindi l'impatto è stato forte, però è stato un impatto in realtà territorialmente abbastanza circoscritto al nord, al sud è arrivato più tardi, con punti vendita di dimensioni medie ma abbastanza più piccoli di quelli che prevalevano in altri contesti commercialmente evoluti, spesso anche localizzati per difficoltà di aprire dove avrebbero voluto in luoghi che non erano esattamente quello che si dice in modo fine in inglese prime sites. Che cosa poi accompagnò il boom del supermercato? C'è chi ricorda l'emancipazione della donna e quindi il fatto anche che certo, la donna iniziasse comunque a lavorare, aveva meno tempo, insomma trovava in un unico posto tutto quello di cui aveva bisogno e poi anche la crescita del sistema della filiera industriale alimentare italiana. Ma allora, il supermercato per molti versi credo che si possa considerare come il compimento di un assetto di mercato, che è quello del mass market che si consolida nel dopoguerra, no? Nel secondo dopoguerra, non nasce allora, perché specie in altri paesi nasce prima, ma il trionfo del mass market è del secondo dopoguerra. Secondo dopoguerra che presenta ormai tutte le caratteristiche di quel tipo di assetto produttivo, ci sono prodotti, dominano i prodotti di marca, sono prodotti noti, noi consumatori li conosciamo, siamo informati su di essi attraverso la pubblicità, sono prodotti che vengono preimpacchettati dall'industria che fa già le porzionamenti. Quando noi andiamo in un punto vendita e sappiamo cosa vogliamo, siamo già informati sulle caratteristiche dei prodotti che vediamo, e i prodotti sono già pronti per essere messi nella nostra borsa o nel carrello, allora arriva il supermercato, che ricordiamocelo, il supermercato è prima di tutto libero servizio, cioè il vero punto di svolta che apporta al supermercato è il libero servizio, che era ovviamente impossibile in un mondo in cui i prodotti non erano di marca, quindi non erano conosciuti, quindi dovevano essere illustrati, spiegati dal bottegaio, non erano preporzionati e quindi il negoziante faceva anche questa funzione, per tutte queste cose era necessario un negozio tradizionale. Quando i prodotti diventano di marca, sono conosciuti, come si dice nel marketing, prevenduti, sappiamo tutto quello che desideriamo, i pacchetti sono già pronti, non ci resta che entrare dentro, toglierli dagli scaffali, metterli in un carrello e andare alla cassa. E il supermercato viene fuori così. Le premesse per il supermercato sono queste cose qui, cioè ci vuole l'industria di marca e deve essere dominante, ci vuole un'informazione di massa molto forte, quindi meglio la televisione, poteva andare anche la radio, ma meglio la televisione, che è il sistema che allora era più potente di tutti, insomma. A questo proposito, che cosa devono in qualche modo il marketing, la pubblicità, la comunicazione di marca, come diceva lei poco fa, al supermercato? Ma gli devono, è una prosecuzione, un compimento di questo sistema, una chiusura del cerchio di questo sistema che nasce nell'industria di marca, che ha il suo volano nella comunicazione sempre di massa, in particolare allora con la televisione. Adesso trova anche un ambito distributivo che è estremamente efficiente, quindi riduce le risorse che il consumatore deve lasciare, diciamo così, per riconciliare la non coesistenza di produzione e consumo nello stesso luogo, quindi questo problema fisico dello spazio, permette una fortissima leva promozionale, quindi permette alla comunicazione di fare un passo in più nel punto vendita, che è importantissimo perché è il momento della verità, è il momento in cui scatta la mano e prende possesso di un prodotto, ed è un ambiente che ha le dimensioni e le caratteristiche di essere anche molto disponibile per l'innovazione e per l'allargamento in generale della scelta che il consumatore ha a disposizione. La GDO, la grande distribuzione organizzata, rappresenta ancora oggi l'avanguardia del retail, e se sì, in che misura e in ordine a quali fattori? Ma allora, sì e no. Sì, da un punto di vista tecnico, no? Da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di capacità di far funzionare un sistema in modo efficiente, con volumi mostruosi. L'abbiamo per certi versi visto anche in quest'ultima occasione della pandemia, la grande distribuzione è sicuramente molto avanti, insomma, no? E quindi questa cosa ce l'ha ancora. C'è un altro elemento, la distribuzione è due cose, no? Il sistema distributivo offre al consumatore due cose: logistica, perché mi avvicina al prodotto, me lo porta più vicino, e dall'altra parte informazione, perché mi consente di vedere questo prodotto, di avere informazione diretta, eccetera. La grande distribuzione è bravissima nella parte logistica, no? Tant'è che l'e-commerce lì ha delle difficoltà perché i margini sono bassi e quindi il costo della domiciliazione diventa non facilmente sostenibile. Sono però i prodotti, per il discorso che facevamo prima, che non hanno bisogno di particolare informazione, sappiamo o riteniamo di sapere più o meno tutto su questi prodotti, sul largo consumo. Quindi lì la distribuzione non è particolarmente, non ha mai investito in modo particolare. Lì l'investimento invece è avvenuto per i beni che hanno maggiore problematicità, quindi è la distribuzione dei beni più complessi, quelli che però oggi sono probabilmente i beni che sono diventati per noi più rilevanti, cioè se uno pensa ai beni di largo consumo, oggi sono dati per molti come beni scontati, per i giovani, i miei studenti li danno per scontati, non è che non li apprezzino, non è che non abbiano un rapporto, diciamo, però le aspirazioni non sono lì, non sono nel largo consumo. Le aspirazioni di 50 anni fa erano nel largo consumo, erano di poter comprare questi beni di marca che si trovavano sugli scaffali appunto dei supermercati. Poi però ci sono anche le eccezioni. L'estate 2020 sarà ricordata fra le altre cose anche per le sneakers, le scarpe da ginnastica vendute a €12,99 nei supermercati Lidl, che sono diventate un vero e proprio oggetto di culto, diventate introvabili, rivendute in rete a più di €100 all'inizio e poi con quotazioni anche fino a €2,700. Ma questa è un'altra storia e ha a che fare con la prossima tappa del nostro viaggio. Intanto la fotografia accanto alla voce supermercato sulla nostra guida galattica inizia a diventare a colori. Ci prepariamo ad esplorare il futuro della grande distribuzione, un viaggio che molti di noi hanno già potuto sperimentare qualche anno fa. Tante molte belle cose soprattutto, e che ci fa capire quello che succederà nel futuro. Insetti. E che quando tocchi ti viene fuori l'immagine. Ma meravigliato, devo dire, soprattutto dove c'erano i robot dove selezionavano la frutta. E poi anche tutta questa tecnologia abbinata ai prezzi. Poi per il resto poi lo trovo comunque, alla fine bisogna fare una normale spesa. Tanti bambini lo visitano, loro sono già pronti al supermercato del futuro. Sì, infatti ho chiesto informazioni a loro per tutte queste operazioni, come si fa, cosa devi fare, eccetera, quindi ci stiamo divertendo comunque. Yumi è un esempio di robot collaborativo, è in grado di confezionare i prodotti, quindi prende una mela e la inserisce all'interno di un contenitore. E poi in maniera molto dolce la porge al visitatore, che può così acquistare la mela confezionata dal robottino. Sicuramente le macchine potranno essere usate per movimentare la merce e per sostituire quindi quei lavori più faticosi che oggi fanno gli addetti, in modo tale che l'addetto del supermercato del futuro possa dedicarsi al cliente, al consumatore. Troviamo dei banchi che assomigliano più in realtà a dei tavoli, alle bancarelle del mercato. Queste bancarelle però sono bancarelle intelligenti, perché soltanto indicando i prodotti su degli schermi compaiono tante informazioni che aiutano il consumatore a scegliere l'acquisto che vuole fare. Ve lo ricordate? Expo 2015, Future Food District, il padiglione del cibo del futuro realizzato da COP in collaborazione con l'MIT Sensible City Lab e lo studio Carlo Ratti Associati, un supermercato del futuro, così venne definito allora, in cui era possibile fare la spesa e toccare con mano le innovazioni possibili nel retail. Abbiamo ripercorso le basi di quel progetto con Marco Pedroni, che è il presidente di COP Italia e di ADM, Associazione Distribuzione Moderna. Era un momento di ripresa per il paese e noi volevamo partecipare con un progetto originale a Expo di Milano. E quindi è nato, diciamo così, con la volontà di portare qualcosa di nuovo nel campo distributivo, che è un campo in cui le innovazioni non sono mai molto significative, almeno dal punto di vista dei formati di vendita. E allora mettiamo un po' le nostre competenze migliori, insieme a Carlo Ratti, l'architetto del MIT di Boston, che ci aiutò nella progettazione, mettiamo le nostre un po' forze migliori a pensare cosa poteva essere non tanto il supermercato più tecnologico del futuro, ma l'innovazione, diciamo così, sociale più interessante. Allora certo, ci volevano tante tecnologie, abbiamo sperimentato tante tecnologie, ma l'idea chiave era quella di ricreare una sorta di piazza mercato, in cui di creare un agorà in cui le persone potessero incontrarsi e non solo le merci. E quindi nacque il progetto del supermercato del futuro Expo, e l'idea era appunto quella di usare le tecnologie per favorire l'informazione alle persone e di avere uno spazio molto aperto per i consumatori. È stata una novità per certi aspetti anche abbastanza importante, non solo per l'Italia, e devo dire che molti erano stupiti che un piccolo distributore mondiale come Coop, perché noi siamo importanti in Italia ma nel mondo siamo piccoli, aveva fatto una cosa interessante per molti. Che cosa a 5 anni di distanza è poi diventato realtà di quel progetto? Allora, qualcosa è diventato realtà nel senso che abbiamo sperimentato a Bicocca, a Milano, un'evoluzione del supermercato del futuro utilizzando quelle tecnologie, ma soprattutto abbiamo portato molti di quegli approcci sulla parte più riguardante il prodotto e le informazioni sul prodotto nell'attività normale di tutti i giorni dei nostri supermercati. Ora, io penso che se si parla di innovazione e si guarda, diciamo, ai prossimi anni, noi abbiamo un campo che è soprattutto quello dell'innovazione dell'offerta del supermercato. Certo, ci sono anche i muri, ci sono anche le tecnologie, ci sono gli scaffali, sono importanti per creare un ambiente giusto, però la cosa più rilevante sono i contenuti dell'offerta, quindi i prodotti e i servizi che dentro vengono offerti ai consumatori. E da questo punto di vista lo sforzo che abbiamo fatto a Expo era stato anche quello di evidenziare gli aspetti ambientali, di sostenibilità, etici dei prodotti, su cui abbiamo lavorato molto negli anni successivi, soprattutto con il nostro prodotto a marchio, che ha fatto degli ulteriori passi avanti in questa direzione, diciamo così, di sostenibilità da un lato, di eticità e di funzionalità dei prodotti. Ed è una scommessa di innovazione sociale, non solo di innovazione tecnologica. I Il giro d'affari della grande distribuzione organizzata in Italia, dati Mediobanca, raggiunge gli 84 miliardi di euro, con una crescita che è andata rallentando nell'ultimo anno al netto, dobbiamo sottolinearlo, dei dati legati all'emergenza coronavirus, in cui le vendite sono aumentate sensibilmente nei supermercati, soprattutto quelli di vicinato, con punte fino al 30% in più, così nel canale online con punte fino al 200%, ma sono diminuite moltissimo negli ipermercati, spesso irraggiungibili proprio a causa del lockdown. Per quanto riguarda le quote di mercato per insegna, il 2019, l'anno di riferimento ad oggi, è l'anno del sorpasso di Conad su Coop, al terzo posto Selex, al quarto Esselunga, al quinto Vege. Questa dunque la fotografia del presente, ma se guardiamo al futuro, che cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente supermercati senza casse, un'innovazione che Amazon Go, la catena di mini market del colosso di Seattle, per ora solo negli Stati Uniti, ha già tradotto in realtà. Si fa la spesa e si esce senza file, si paga via app tramite la tecnologia che Amazon ha chiamato Just Walkout Shopping, basata su sensori, telecamere e intelligenza artificiale. Ma quali saranno le principali innovazioni della spesa del futuro? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Pozzi, responsabile retail di Accenture. In questo periodo, soprattutto nel periodo post-Covid, c'è una forte attenzione alla ricerca di un'esperienza col consumatore più personalizzata, perché questo vuole prevedere un ritorno alla richiesta di fiducia e comunque di fidelizzazione col consumatore stesso, che nel periodo anche Covid, il periodo difficile, è stato perso. Questo cosa significa? Che le innovazioni maggiori su cui la grande distribuzione sta puntando, e lo si vede un po' a livello internazionale e quindi verrà poi calato anche sempre di più in sperimentazione a livello nazionale, prevedono tutte innovazioni legate alla cercare di capire il comportamento del cliente all'interno del punto vendita, cercare di identificarlo magari all'ingresso o comunque all'interno del punto vendita, non spiandolo soprattutto, ma semplicemente cercando di accompagnarlo in quelle che sono le sue ricerche abituali e proponendogli delle offerte personalizzate o comunque delle attenzioni particolari. Il tutto avvenendo in una maniera molto trasparente e quindi molto intercettibile per lui. Quindi un gioco forte, le innovazioni che ci sono dietro e che il consumatore non percepisce, ci sarà molta intelligenza artificiale, ci sarà un uso sempre più spinto probabilmente della componente videocamera, televideo, dove l'intelligenza dietro, nel riconoscimento, chiaramente nel rispetto della privacy dei consumatori, potrà far sì che il consumatore verrà colto appunto da informazioni giuste, e allo stesso tempo queste informazioni saranno utili anche al player della grande distribuzione per capire dove ci saranno delle zone calde, delle zone fredde, se ci saranno degli assembramenti in alcune aree, se questi assembramenti sono dovuti all'interesse di un particolare merceologia o comunque di una categoria di prodotti di fresco che attualmente stanno avendo dei riscontri positivi, e su questo indirizzare anche al tempo stesso per esempio le code alle casse, piuttosto che quindi ottimizzare il personale all'interno del punto vendita. La strada su cui viaggia John Underton è quella meno percorsa. Assicurati che si spogli di Anastasia. Una storia che non potrai mai dimenticare. Ehi, John Underton, scappa via da qui. Bonjour, John Underton. Avresti proprio bisogno di una Guinness. Questo dialogo con la tecnologia sarà sulla scia di tanti film che abbiamo visto, mi viene in mente Minority Report, quindi col riconoscimento del cliente e l'offerta personalizzata, o sarà secondo modalità diverse che hanno più a che fare con un dialogo più intimo? Sì, ha a che fare con un dialogo secondo noi molto più intimo, nel senso che quello che il cliente, la grande distribuzione vuole cercare di avvicinare il consumatore è conoscere la sua storia, conoscere in anticipo un po' le sue abitudini, ma farglielo sapere direttamente a lui e solo a lui. Questo sarà un passo sicuramente, come dire, importante, nel senso che a me piacerebbe poter entrare nel punto vendita con la mia classica lista della spesa, che probabilmente me la porto dietro a questo punto sia sul cellulare che su qualunque mezzo, chiaramente corrisponde al mio comportamento di acquisto abituale. Questo comportamento l'azienda lo conosce, il retailer lo riconosce, e allora mi vuol guidare nell'esperienza all'interno del punto vendita, proponendomi a me, piuttosto che al resto della popolazione, determinate offerte, o determinate, non solamente cose, ma determinate scelte ad hoc in base ai miei comportamenti, in base ai miei, soprattutto alle mie abitudini, ai miei consumi, quei miei desiderati di stile di vita che attualmente sorprendente. Questo l'utilizzo ancora più ampio di quello che si parla sempre di dati, di data, comunque per cercare di capire in anticipo qual è l'aspettativa di un consumatore, diventerà sempre molto più importante, determinante ed efficace. Ripeto, tutto questo verrà in maniera trasparente alle parti dei consumatori, che riceveranno appunto delle informazioni non in maniera massiva, ma assolutamente in una maniera più puntuale e in un'ottica quasi di valore aggiunto della spesa o dell'esperienza che sta vivendo all'interno del punto vendita. Ci immagineremo dei punti vendita che non saranno neanche più quelli di una volta, dove ci sarà molto spazio all'esperienza anche del prodotto cucinato, del prodotto fresco e dell'esperienza di vivere, l'esperienza quasi gastronomica del consumatore all'interno del prodotto, perché ci sarà molta attenzione appunto alla qualità del fresco, del prodotto, del food. Ecco, ci sarà molto più l'attenzione al gusto, a quello che è lo stile di vita, e cercare di interpretare il suo stile di vita e quindi offrirgli qualcosa per il suo stile di vita o le sue abitudini, la sua attenzione particolare all'organico, al biologico, alla sostenibile. Anche questo sarà chiaramente, dovrà essere intercettato, e questo sarà stimolato, sarà uno stimolo per il consumatore quando vivrà all'interno del punto vendita. I confini tra fisico e virtuale saranno insomma sempre più all'insegna di una fluidità in cui ci sarà una dimensione di dialogo e già di preacquisto virtuale e poi un acquisto fisico o viceversa, ecco, quindi una sorta di osmosi, ecco, tra... Esattamente, un'osmosi, cioè il punto vendita fisico diventerà sempre più digitale, ma nel senso che io l'esperienza che vivo sul digitale sarà percepito uguale a come lo vivo nello store fisico e viceversa. Semplicemente, che cosa cambiano? Le modalità diverse delle cose che io cerco in questo momento, in quel preciso momento. Se io vado nel punto vendita è perché sono attratto anche a vivere un'esperienza, dicevo prima, che comunque è olfattiva, è tattile, quindi devo assaporare anche il prodotto che viene lavorato all'interno del punto vendita, magari cucinato, magari voglio dire preparato, voglio dire e con una certa freschezza e qualità, e voglio vivere questa esperienza. E allo stesso tempo, quando sono lì, io posso chiaramente aumentare la mia richiesta di offerta per il mio consumo, per una cena o per la spesa settimanale, facendo, estendendo tutto l'ordine per le altre categorie di cui non necessita, vuol dire, uno spazio fisico. Quindi immagino appunto beni di secco, di detergenza, piuttosto che di acqua, di secco, eccetera, qualcosa che appunto rappresenta un bene di cui l'esperienza, vuol dire, è già vissuta e non necessita una presenza fisica. Immaginiamoci in un supermercato tra 5-10 anni, che cosa sicuramente ci sarà? Le chiedo, ci saranno ancora le casse, ad esempio? Che cosa non ci sarà più e che cosa ci sarà? È molto più possibile, verosimile, è sicuramente una dematerializzazione delle casse. Io vedo un mondo in cui la scomparsa, diciamo, del pagamento fisico attraverso una barriera che non solo fisica, psicologicamente anche, vuol dire, non piace, non è mai piaciuta. Questo sarà l'evoluzione, dire, tra 3-5 anni, forse qualche anno in più, e sicuramente quella sarà la via. Cioè, entro in uno spazio in cui attraverso il mio cellulare io posso chiaramente fare la spesa, perché basta avvicinare il mio cellulare sui barcode dei miei prodotti e posso effettuare il pagamento direttamente dal mio cellulare, uscendo dove ci sono delle barriere invisibili in cui io chiaramente posso fare la transazione su questo. No, non credo eccessivamente in una presenza massiva della tecnologia in termini di automazione e robotizzazione che possa superare, diciamo, l'esperienza umana all'interno del punto vendita, in quanto, vuol dire, può essere vicino alla componente umana di ti chiedo un consiglio per. E questo, se noi pensiamo ad oggi, tutto il personale che c'è nel punto vendita, che è più dedicato all'efficienza operativa, alla gestione dello scaffale, appunto ai pagamenti sulla cassa, quindi alla relazione, alla gestione delle code, probabilmente domani avremo più dei consulenti di food commessi, che vuol dire che accompagneranno in un acquisto, ma che l'acquisto poi dopo diventerà molto più seamless, come diciamo, molto più leggero e fluido nel momento in cui, vuol dire, facciamo il nostro percorso, la nostra esperienza d'acquisto all'interno del punto vendita e usciamo con un pagamento che è come quello che noi facciamo abitualmente adesso nel momento in cui facciamo degli acquisti di qualunque tipo sul nostro cellulare. Finisce qui la prima tappa del nostro viaggio nella galassia dei consumi tra presente, passato e futuro delle nostre abitudini di spesa. Nella prossima puntata ci sarà una nuova parola chiave da cercare nella nostra guida galattica per consumatori. Allacciate le cinture e niente panico. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, un saluto da Maria Luisa Pezzali. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.